quindi si trasforma, cioè anziché togliere i pezzi, allarghi la parete, in modo che se devi lavorare la tieni chiusa per dire a 50 cm di larghezza, se devi coricare e usarla come letto la allunghi, esce tutta la parete intera e poi gli fai una ribaltina, c'è anche quella di soluzione, l'ho vista, bellissima, però ho detto cacchio, troppo complicata da costruire, non da costruire, diciamo, la costruire una volta che l'hai fatta va tutto bene, poi alla fine ho detto ma ciguli contro rumori, di lì è tutta, quando cammini e senti tra tutti questi rumori, tu non hai idea, già con quella roba che sto facendo io ho tutto sigillato col mastice, non si ricorda proprio mastice quello che utilizziamo con i poliuretani con noi, tutte le parti in legno, le parti in metallo, perché se no lo sai i cigoli che ci sono in quella roba. E scappa, in uno quello Ford che ho è stata tutta una lotta, anche perché l'ho completamente smontato tutto, anche contropanche, mobili vari, armati, l'ho smontato perché ho cambiato in legno la struttura, perciò si può immaginare. E comunque è stata proprio una lotta per evitare i cigoli, dunque ancoraggi sicuri, sigillando tutto, così. Più roba metti è ovvio, più c'è questi problemi, meno roba metti e meno risenti, solo che il minimo indispensabile ci vuole. Naturalmente è così. Purtroppo, ti ripeto, sono obbligato a quella destinazione d'uso, se no avrei fatto totalmente diverso, avrei messo il letto in coda di traverso, anche matrimoniale direttamente, con tutti i vani sotto, con tutti gli sportellini, in modo da poter contenere tutti gli oggetti e le cose, però purtroppo devo rimanere così, devo rispettare la destinazione d'uso di veicolo uso speciale, autoveicolo uso speciale, adibito laboratorio mobile, comparti mobile e fissa, questo è quello che c'è scritto nel libretto, non è un'autocaravan dove puoi fare quel cavolo che ti piace. Beh certo, sì, uso speciale perché è nato così, poi cambiare la destinazione non puoi neanche farlo, lo sai, la questione di data del libretto. No, già si può fare, l'abbiamo anche fatto fare, però è un po' abbastanza complicato. Ci vuole la firma di un ingegnere meccanico, diciamo, riusciamo a fare tutto, dai. La complicazione è che la revisione te la fanno fare, non la revisione, il collaudo lo fai a Cagliari, l'abbiamo fatto noi un altro di quelli però dell'Enel, quando tu avevi questo dell'Enel, un peccato smontare quell'apparecchio lì, era un Ducato del 1993, c'aveva 30.000 km, nuovo, era un Ducato trasformato, addirittura il tetto era calpestabile perché c'ha la sovrastruttura tutta in alluminio grossa, abbiamo fatto un controtetto sopra, questo c'aveva un palo telescopico di 13 metri motorizzato, in altezza, motorizzato in altezza e motorizzato in radiazione, serviva l'Enel per misurare i campi elettrici degli impianti, tutto digitale, infatti mi sono preso i quattro comandi, c'era in digitale elevazione, quanti metri stavi sollevando e quanti gradi di rotazione, l'impianto era tutto a 24 volt con degli inverter grossi, qui c'ha, li sono rimasti, li abbiamo lasciati, i piedini di stazionamento pneumatici, comando pneumatico, doppio alternatore, con due alternatori questo qua, perché c'era l'impianto della vettura a 12 volt, qui a 24 era tutto l'impianto, tu vuoi vedere, c'erano tutti i computer, tutto qua, ne ha smontato tutto, e un allevatore se ne ha preso questo impianto motorizzato, tipo quelli che usano l'Escopost, col palo da 13 metri, tutto motorizzato, telescopico, e più il motore, il rotore per far girare questo sistema di antenna, per misurare questi campi eletti, ma tu vuoi vedere cosa c'ha di cosa questo, cioè, cosa c'ha di tecnologia, costava più all'epoca più di 200 milioni quell'apparecchio, cioè solo di allestimento. Cioè praticamente il sogno di un radioamatore campionista, diciamocelo. Guarda, ti sto dicendo, era una cosa bellissima, infatti la storia me l'ho fatto togliere, infatti gli abbiamo voluto chiudere il buco sopra, detto, ma tu devi vedere anche la scaletta stessa per salire su, non è le classiche scalette in alluminio, tutta in acciaio inox, proprio costruita a mano, in scatolari in acciaio inox, la chiusura fatta con una specie di graffetta tagliata, animata, guarda, lavoro spettacolare, proprio bello, poi tutto di altissima qualità, una ditta di Roma, di Fiumicino mi sembra che l'ha fatto, ma tutto certificato, ogni cosa, ogni impianto che c'era, tutto con tutti gli schemi, i progetti, anche io ce l'ho nel quello mio, c'è tutto il progetto di cui l'ha costruito, addirittura c'è nel progetto c'è il lampeggiatore, perché questa c'era dotata anche di lampeggiatore tipo il coso, quelli dei vigili del fuoco, quei lampeggiatori gialli che si mettono sopra, tutte le luci, l'ingombro, cioè quello era tutto eliminato. parte, ma tu devi vedere la costruzione come l'ha fatto, però l'ha fatto in un modo tutto strano, infatti l'ho tutto modificato io, ne ho buttato alla fine, ho detto dovevo utilizzare quelle pareti lì, ne ho buttato tutto a terra, ho rifatto tutto, tutto nuovo, ma era studiato veramente bene per l'uso che ne facevano, però questo dell'Enel era spettacolare. E c'era ancora questa ragazza, proprio ieri è venuta, le abbiamo fatto delle piccole manutenzioni. Avanti di nuovo Fabio, vediamo se è rientrato qualcuno. Santrone, ho detto ciao. E non ti ho sentito già, perché abbiamo lasciato il bianco prima, però non è entrato nessuno. Riprendi Gianni, dai. Lei ha sentito che si è preso dal raccolto. Dove mi sei andato anche Tonino? Tonino. E io, sono tornato. Siamo tutti quanti qua, dai. E allora Fabio, Fabietto. Caffa, un po' impegnato in questi giorni, già l'hai capito. Sì. Purtroppo sì. Lo so. Se quando è gestibile, sì. Poi non lo so. Si vedrà. Questo è. Speriamo bene. Diciamo che speriamo, da, speriamo. Forse così è meglio. Non so tutto dove fate la testa. Lo so, perché poi arrivi un punto che la gestione va data a una persona competente, capito? Uno fa quel che può. E noi ci troviamo, fino all'ultimo, come al solito. Don't give up, non mollare, questo è il mio motto, io non mollo mai, no, non mollo mai. Poi si arriva al punto, al drop, cosiddetto, si arriva al drop e quando arrivi al drop ti rimbocchi le maniche, fermi tutto e si chiude un capitolo e se ne è un altro, forse si chiude un libro questa volta, comunque. Siamo tutti di buona volontà, speriamo bene. Io te lo auguro. Io ci provo, poi come va. Se ci metto tutto quello che ci posso mettere fino all'ultimo, non potrò mai dire nei prossimi anni se avessi fatto questo, se avessi fatto quest'altro. Io ci metto tutto. Ci metto tutto, poi come Dio vuole. La premiata la tua buona volontà, non ti preoccupare. Avanti tu. Cappa. Ce l'hai in coppia Fabio, sì? Adesso sì, grazie a Dio, o a te. Ok, e ho messo qualcosa sotto, vedere una piccola spinta, perché non mi sentivi bene poco fa. Ma forse sai che passava la radio? Magari non è la possibilità, cioè eri già alta. Ma guarda, un mezzo punto di radio eri chiaro, quasi. Sto usando il mic normale adesso, non ho attaccato il microfono amplificato. No, sei chiaro, alla mia antenna arrivi chiaro. Certo, c'è da una parte che dall'altra, soprattutto sulla stazione ti ho alzato perché ho la possibilità di mettere un po' di amplificazione, arrivi un pochettino più alto di segnale, poi tu ti sei alzato e siamo a posto. Vabbè, ma questa antenna fino a quando la metto, secondo me tu sei la mia torre di controllo, sì. Ah, così. Sì, stavo raccontando Gianni e Tonino l'altra notte, due notti fa, quando sono andato via da qua, che non posso anche non mi ho portato io nel letto, c'ho sempre, quando molte volte mi sveglio per farmi venire di nuovo il sogno, mi accendo la radiolina. E c'ho questa radiolina come più piccola di un cellulare, che c'è anche quasi da 0 a 30, dai. C'ha da 25, c'ha una banda che fa da 25 a 30, a 29.999. E poi li stavo ascoltando. Quello che mi ha impressionato, a parte Fabio, che Fabio qua vicino arrivava forte, magari di radio non è fortissima, però il segnale è più forte che c'è, diciamo, in quel momento lì. E il più forte, lo sapete chi era il più forte come radio assurda? Io lo so. Luca. No, e Gianni Rumbroffetta, che era una radio allucinante con questa radiolina. Ascoltavo Muros, ascoltavo Tonino, vabbè Gianni a te ti ascoltavo, Riccardino, ma quello che arrivava più forte di radio era Gianni Rumbroffetta. Infatti sono rimasto un po', ho detto cacchio, questo è in un buco, lontano da me, io sono dentro camera, tutto in mezzo ai palazzi, con un'antennina di 20 cm neanche, di quell'estilo, proprio la classica radiolina, cacchio, arrivava una bomba. Così vabbè Fabio è vicino, ma non è così amplificata come Rumbroffetta. E poi Tonino, mi sono rimasto a bocca aperta, arrivava molto forte Tonino di radio, e anche Coso, Muros, ascoltavo anche Muros con quella radiolina, non dico quelli di Sassari, tipo Gianni, Riccardo, però ascoltare Muros dentro il letto, con il catto, con l'antennina, che a Giumano non piglia manco le radio private, e ho preso a tutti, sono stato veramente a bocca aperta, anzi orecchie aperte. Il piccolino ero io, va! No, ho detto il più piccolino, ero io. No, ma tu arrivavi forte già, ma tu sei vicino, nel senso, Muros, ascoltare Muros con una radiolina o Tonino che sono più lontani, Tonino arrivava forte di radio, però la radio più forte, già ne tu eri forte, quello più forte in assoluto, che è proprio la radio squillante rispetto alle altre, era un gradino più su degli altri, era Gianni Rubroffetta, infatti io ho detto, cavolo, non pensavo che fosse, cioè, per dire, quando ascolti col baracchino, più o meno vi equivalete tutti, magari, ma ascoltate una radiolina che una predominante delle altre, quella di Gianni era un profeta, era la più forte di tutti, e Tonino se la giocava, considerando che era molto lontano rispetto agli altri. Oh, grazie, stavo dicendo, Rube, il fatto che lui ha forse una posizione favorevole, perché non è che abbia una grossa antenna, c'è una bella posizione sicuramente, perché arriva bene da tutte le parti, anche con la boomerang, figurati si può un'antenna avanti. Ma arrivo nell'antenna avanti, non ascolta più nessuno, ma quello che mi meraviglia, lui esce con 4 watt, cioè esce con un'antennina, non dico che sia scaccina, però non è una mantova, in un buco, perché lui rispetto a me è in un buco, c'ha tutti i palazzi grattacielo, tutti i paesi, palazzi del centro studio, non c'ha, diciamo, spazio libero per dire come lo posso avere io, che non c'ho niente davanti per certe direzioni, lui invece è chiuso da tutte le parti, che arriva il segnale più o meno tuo, già, quasi 9:20 lui arriva, è una radio da paura. Ma qui c'è un apparato che gli dà 20 watt sicuramente, non 4 come dici tu, che è quello che gli ha dato Marco, quello lì esce forte, esce bene, io sto scendo con 9 watt, cazzo, cioè non è la stessa cosa. Non lo so, lui ha parlato di potenza dell'apparato, l'apparato normalmente se non c'hai qualche accorgimento sono 4 watt, normalmente parliamo di legge. Così Luca, la radio di Luca è spaventosa, Luca arriva un segnale lo stesso, quasi 9:30 arriva, di tutti quanti è il più forte di tutti, a parte di quelli che c'ho vicino, Luca è quello che arriva più forte di tutti considerando le distanze. Sì, già ci difendiamo tutti bene, siamo tutti oltre 9, più o meno, tranne, cosa posso dire, coso, il pomeriggio, ma per qualcuno proprio contatto sulla punta delle dita arriva più basso, perché se no siamo tutti oltre il 9. A Puglia tu sei quasi 9:20, poi quando attacchi arrivi ancora più, Tonino è quasi 9:20, 9:15, anche lui se dà qualche vitamina arriva a tutti, Riccardino anche qualcosina più di 9:20, e Coso, Muros arriva a 9:15 quando attacca a 9:20, cioè 9:5, arriva a 9:05 senza attaccare, con quanti watt, 3-4 watt, attaccato arriva quasi 9:20, ma tutti più o meno arriviamo, anche Eugenio, che Eugenio arriva più di 9. Chiudo a portato. L'unico che ascolto basso basso è Coso, come si chiama? Emanuele, è il figlioccio di Coso. Certi momenti arriva a 8, o 8 e qualcosa, oggi era 7, Santiago 6-7, però la radio era quasi incomprensibile. Emanuele, c'è una radio che se dopo si mette l'antenna lo vedi come finisce. C'è una radio fortissima, ma arriva bene a casa nel 9:20, non va così perché siamo vicini. Là. Ma la radio di Emanuele è bellissima, è una bella radio, molto forte. Sì, immagino, purtroppo, anche Franco lo stesso, quando ho usato l'altro apparato era 9 abbondanti, con l'altra radio era chiara, con l'altro baracchino, però era Santiago 7-8, però la radio non era molto amplificata. Vi lascio qualche minutino, arrivo subito, dai. Beh, comunque, il profeta arriva bene da tutte le parti, anche con una boomerang, ha anche un apparecchio che le dà, diciamo, un aiuto, però arriva bene a tutte le parti. Ah, il miracolo sono io, che sono 4 watt tondi questi, con l'antenna qui davanti e la radio tenuta a metà, anche perché non so, con l'antenna così bassa che danni posso fare. Devi contare che ho l'amplificato la metà del microfono, il mic gain a metà, 4 watt e antenna sul due atterrato. E stiamo parlando, mica strano qui. Campagna, sì, è così. E io adesso come ti arrivo? Allora, se mi fai un passaggio ti dico i due rapporti di segnale, mi abbasso anche le reskin dell'altra, così ti do un controllo più sincero. Ehi, dai, guarda Fabio, un controllo di Radio Santiago, grazie. Allora, sulla stazione sei 9:15, con delle skin a metà, normale, cioè né amplificato né attenuato. La radio, diciamo che sono quasi 5, non dico 5 piena, ma quasi 5, perché hai un po' di rumore di fondo, perché no, arrivando fortissimissimo è così. Invece sull'apparecchio quello cattivo, quello che ogni volta è avaro, non ne vuole dare, c'è Santiago 5, ma è normale. Ma come radio di fili sei più alto quando su questo che vince Santiago 5 che sull'altro, figurati. Dunque qua c'è un segnale pieno, pieno. Poi c'è Roberto che ha il 100%. E tu sarai al 75-80%. Non è male per il mio antennino. Vabbè, Roberto è più basso, io ero blitto. Roberto è proprio attaccato a me, anche se la mia antenna va in direzione opposta a lui, è per quello che non gli spacco lo smitter, come dice lui. Tony. Ehi, ho messo il microfono da tavolo. Com'è la modulazione? Meglio del prima? È più forte, ma per fare salotto andava migliorato. Per fare salotto? E per fare salotto andava migliorato. E mi piace fare poltrona. Salotto nel senso che la notte quando si parla molto tranquillamente. Ho capito già. Ma siccome io non ho messo la batteria nuova per guardarmelo e basta, ogni tanto bisogna usarla anche lui, poverino. No, no, a me sei, non dico entro a casa, ma è passato a fianco. Addirittura. Beh, era il primo passaggio di stasera, adesso è come se hai preso la macchina e sei venuto più vicino. Cappa, io ho messo qualche vitamina sotto, dai. No, non si piace, sto solo con fare Roberto che sentì a me bene, io sono fuori sasso, giustamente. Quindi linea d'aria sono un bel po' di chilometri. Non pensavo, giuro, non pensavo che io arrivavo bene in tutte le parti, ti giuro. Ero convinto che arrivavo con 7-8 al sasso e non di più. Sono rientrato. Davvero? Sono rientrato. Riprendi, tra l'altro. Chi c'è? Tu, Gianni e Fabio. Roger. Ma roba, non mi sono accorto che sia entrato, si è illuminata anche la finestra del bagno. Ah, lui è proprio sicuramente, così quando entra a coso, un pugno è spaventoso. Da come arriva lui, io senza, anche se sono un'altra stanza, che non c'ho il baracchino davanti, io vedo, sembra dentro uno stadio, quando si sente, quando la torre si segna, no? Uguale. Un pugno si è abituato a fare così, eh. 25 anni fa, 30 anni fa, un pugno faceva illuminare tutto. Non è che me lo devo vantare perché mi ha cagognato, però è vero, cioè è sempre arrivato forte dappertutto. E a qualcuno questa cosa non gli piace. Discorso chiuso. Avanti, Tonino. Cappa. Io un tempo lo stesso uscivo come adesso, così mi hanno confermato, sia mio figliuccio che anche Gianni. Tony? Sì, quanto è il massimo ai tempi passati di cavalli fiscali di adatto in baracchine? Un chilo. Il telefono, scusate. Ok, e tu Fabio? E io sono arrivato a 3, anche se non era a casa mia. Come se non era a casa tua, per la corrente? No, non era a casa mia il giorno, però 3, ho fatto anche un danno e ho staccato pure il contattore. E tu Gianni? Io sì, 1200 in 600? Sì. E che servivi per usare 600? Un Giambo Aristocrat. Ah, quello di Salvatore, l'ho avuto io. Ci credi che lui me l'ha lasciato a me? Io l'ho solo acceso e ho visto che ha fatto una mezza scintilla. Ho guardato e c'era il connettore del PL dove attacca dietro che non stava facendo contatto bene la soldatura. Glielo sono dato, l'ho tenuto 3-4 mesi, mai usato, glielo ho restituito. Ah, fatemi darlo a me, che io sono affezionato a quello. Dimmi Tony. C'avevo il Galaxy 1000 a quei tempi. Abbiamo fatto una prova con Claudio tempo fa, se ascolto. Non dico solo la verità, io non dico mai bugie. Pompando lui, pompando io, me, Cato Silvestro, buon'anima, non sentiva né a lui né a me. Dice, stavano scendendo le fiamme a Sassari. Ma dove abitavi? Centro storico, vicino alla questura. Cacca, di lì ha annientato tutte le televisioni nell'arco di 500 metri. Sai che mi è venuta la pattuglia a casa a mezzanotte, ma detto, sta entrando interferenze da lui. E c'era lì acceso con lo valvolare, due pentole di raffreddamento. C'è un rumore, un poliziotto si avvicina e fa, scusa, cos'è quello lì? Io nel millesimo secondo ho capito, ho detto se questo mi sta chiedendo cos'è, non lo sa cos'è. Ho detto no, questo è un matching box, cioè allora questo è un conduttore dell'antenna che se non ho preso mi induce il finale, io sono 5 watt. Mai con la Grand Plane? No, avevo la Matoma 1. Ah, meno male, perché se attaccavi la Grand Plane oltre i 500 metri andavi, tipo quando c'è l'esplosione nucleare, c'è il primo pezzo che muoiono tutti inceneriti, poi dall'altro poi avanti di altri 10 km ci sono le radiazioni e poi a 100 km ci sono gli animali che crescono strane. Comunque, con la prova è andata, ripeto, qualcuno ti manda laterale, la lampadina si abbassava in casa quando schiacciavo. Di giorno non faceva perché sommavo troppo i cimi che erano nella zona mia, quindi mi faceva abbattimento. Io in quel periodo non ci avevo la Gain Quinto, diciamo Aristocrat, il microfono MP2U da Palmo e uscivo una bomboletta. La Gain Quinto era, ce l'ho valorato, 120 canali già. Sì, 120 canali, ma l'avevo venuto, lo sai che Luigi, quello che... Luigi, quello che metteva la musica a Sassari Radio, quello lì, che poi faceva il DJ anche in discoteca, eccetera, eccetera, quello lì, tecnico anche, e l'avevo appena comprato. Mentre se lo vuoi te lo do, però non te lo faccio pagare molto di meno. L'ho appena comprato, qua l'ho ordinato 3 giorni fa, l'ho comprato proprio, lo riordino e me l'ha venuto, ragazzi. Mi aveva fatto anche l'esclusione per togliere il tipo, perché lo so che venivo anche a già, io ero quest'area di superiorità con questo bimbi, tornino. Sì, lo chiamava Luigi Cavapicci, già me lo ricordo. Ma poi dice che spattava anche cosa, il nido agli uccellini, anche 131, Marco 131 me l'aveva raccontato a me. A Marco 131 prima mi rompeva le palle che lui frequentava allo stesso circo dei comunisti e col baracchino io disturbavo, rompeva le palle, poi si è messo il baracchino lui e tra me avevano di più nulla. Mi aveva fatto conoscere Salvatore Maestrale che gli faceva dei lavoretti di meccanica, dice che era un bravo meccanico e anche lui dice qualche battaglia la fa. E poi l'amico di Coso, che forse Fabio se lo ricorda, come si chiamava quello Gianni che ha parlato per un periodo, lo stesso era un tecnico, aiutatemi, che parlava di notte tardi. Antonio Florio Paese. No, quello, come si chiama, Vaffan Napoli. L'altro giorno stavamo parlando con Antonello Pompugno. Credo che sia anche grande di età a me. Ma era ragazzino quando entrava in frequenza? No, era grande, facevano lui e Coso e Vittorio, dicevano quelli che facevano, tiravano fuori un po' di potenza. Mario e due. E di nome come si chiama? Mario, Notari, cognome. No, non sto parlando di lui. Aspetta, come si chiama? Cacchio, non mi viene il nome. Vittorio no, si chiama... Cacchio, tu lo devi conoscere benissimo, sia Gianni che Fabio. Fabio perché si era cognato di cose, erano molto amici con questo qua, che credo che ci avesse un laboratorio o qualcosa del genere. Panzer. Chi? Panzer. No, allora entrava, io parlo 10-15 anni fa, quando ho iniziato io di notte molte volte, entrava un tipo molto silenzioso, parlava molto poco, una voce bassa. No, non ce l'ho presente, chi stai dicendo? Quando mi viene il nome già ve lo dico, lo conoscete bene, soprattutto Gianni, tu lo conoscevi anche di persona, mi sembra che era in via Sorso, può essere? Via Sorso c'era Romeo 33. Come si chiama? Romeo 33, Ladiniti, fisioterapista cieco. No, non era cieco, questo era radiotecnico, cacchio non mi viene il nome. Vabbè, Fabio, tu ti puoi venire in mente qualcuno? Non sono arrivato a Quagliare. E poi ho conosciuto uno che ci conosciamo, questo c'è il laboratorio in via Coso, in via Vicolo Sassu, lo conoscete? Giuseppe, vabbè, il cognome non lo diciamo. Adriano. Ha detto lui, Adriano sta parlando. Adriano, sì, ma io non mi ricordo che ti abbia sorso. Adriano c'aveva belle radio, belle amplificatori. Sì, abitava via Sorso, sì. Abita tutta via Sorso. Però Tony, via Sorso, girando dal Campari, 100 metri da... No, quando ci devo accampare da costruire praticamente da mercato lì, come dice all'inizio del sorso c'era a circa 50 metri, c'era Romeo 33, il cieco conosciuto. E più avanti c'era Adriano, io ho conosciuto Romeo 33, ma mi dato pure a volte a chi lo fa vedere di quella moglie, la 5. E Adriano parlava qualcosa con la figlia del principessa. Era fidanzato. E dopo sono messi insieme. Ma poi Adriano grande dietro. E adesso sarà grande sì. Adriano non passa solo per me, no? Sì, me lo ricordo Adriano. E poi c'era un periodo che c'era, non dico la maniera della forza, la maniera di fare lineari, ma ricordate Franco Delta 1 che stava in via Grazia Deledda, c'era il laboratorio di computer, ogni tanto attaccava qualche linearino discreto. Sì, lo ricordo. È sparito tutto, non c'è più frequenza. Allora, io a Franco l'ho visto qualche anno fa, poi si aveva fatto il laboratorio vicino a via Marsiglia, è stato per un periodo lì lavorando, collaborando con uno, poi da lì si è spostato e le aveva messa tutta la roba, l'attrezzatura nel garage vicino, gli hanno rubato tutto, mi ha detto, poi ho mollato tutto, non so cosa sta facendo adesso, mi è passato una volta di vederlo, era venuto poi anni fa in officina con la fidanzata, con la compagna, poi non so che fine abbia più fatto. Ma io sono un becchino, tu pensa che Franco Delta 1 era la croce lui che facevo io, ma proprio i primi interventi li ha fatti dove c'ero io. Ehi, ok, facciamo riprendere Fabio, tu che ti ricordi di Gente Sfidiata? Ma Gente Sfidiata, nomi che conosciamo, grande qualcuno che ogni tanto prendeva una stufa e allora magari per un po' usciva in maniera un po' diversa, poi la stufa se la prendeva, o la bruciava, o bruciava l'antenna e riabbassava la griglia, e questa è roba che ho visto per i volti. Io qua di recente ho ascoltato una persona che non si può dire il nome, ma lo sapete già, che ha provato da giù dove sta lui, ha attaccato prima 100 watt dell'apparato, poi con l'altro apparato 200 watt dell'apparato e poi gli ha attaccato, ha abbassato la potenza a 80 watt e ha attaccato il lineare da 3 kW e mezzo, anzi da 4 kW e mezzo e ne ha dato 2500 e qua arrivava quasi 9,40, considerando la distanza per capire da dove stava andando. E ci ha fatto anche in direttiva? No, era volamato, ma non era in direttiva. Vabbè. Soddisfazione arrivare senza lineare fuori. Sì, no, ma adesso fanno le gare in QRT, dichiarare la potenza più bassa possibile e arrivare il più lontano possibile con pochi watt, lavorare solo in antenna. Questa persona che vi stavo cercando prima, questo Giuseppe che si faceva chiamare Super Pippo, chi se lo ricorda? Io. Quello lì si è vantato, io sinceramente non l'ho mai sentito, che lui diceva io ho avuto la stazione più potente della provincia di Sassari in CB, questo ho detto da parole sue, non detto da altri. E quando modulavo c'è Super Pippo? Questo penso negli anni 80 abbia fatto. Mai sentito io uno che Super Pippo che era la stazione più potente, ma lui ci aveva qualche anno fa ancora il 440, però lui probabilmente attaccava al 440 e gli attaccava altre cose. No, io lo ricordo ma a livello di attivo, poi adesso non so se avete stato attivati in antenna. Me lo ricordo che era fine anni 80, penso che siamo dei primi nominativi che ho sentito. Fine anni 80 e poi metà 90 entrava qualche volta, anche se non era nella mia compagnia, cioè nella mia ruota, in linea di massima. Ma niente di speciale, le stazioni forti, due le ho conosciuto, forti. E poi c'è qualcuno che ha una stazione veramente forte, però non lo sentiamo. E magari quando entra esce con 5 watt. C'era un CB che addirittura con un antennino arriva più forte tutti tutto Sassari, anche fuori, nonché all'ultimo piano del grattacielo. Più forte di tutti quel periodo te ne dico io, no? C'erano Walter e Vittorio che facevano le gare, arrivavano a Parigi, a Urbia, di notte. Cazzo, roba di notte attaccava. Io sono rimasto a tempio, però oggi sto momento c'è forte. Uno che aveva un chilo fatto da un altro paio di maniche, certo, uno liscio non è che era così potente, no? Capito, non è come la questione. Certo, è bello arrivare con l'antenna con pochi watt. Cosa volevo dire? Adesso ho perso il filo del discorso di un altro che si faceva sentire forte. Lo ricordate a Coso? Mario Manzi, lui c'aveva un chilo watt. Sì, lo conosciamo, assai durato. E un mio collega gli ha sparato l'antenna. Ma guarda, io di Mario qualcuno dice, ha detto cose diciamo non belle, però per come l'ho conosciuto io, che l'ho conosciuto anche di persona a Mario, l'ho sentito qua in frequenza a parlare, posso dire, da parte mia io non ho niente da dire, una persona corretta, educata, chiedeva sempre permesso quando entrava, poi se disturbava, ha creato problemi, non lo so. Io qua in frequenza ho un buon ricordo di Mario. Ma io ripeto, lo conosco da poco, da sua da poco. Con me si è sempre comportato bene, lui, grazie a Dio. È stato educato, quello confermo, sempre. E quello è importante, perché poi quando fai un prepotente in radio, guarda, con me non ci vanno d'accordo. Perché se devi fare prepotente me lo dici in faccia, mi affronti, quando vedo certe cose in radio, infatti molte volte io, se hai notato proprio con te Tonino, con qualcun altro, ho detto, non prepotente, no che sei prepotente, vedevo molte situazioni e subito intervenivo, fate da bravi, ti ricordi Tonino proprio con te, una volta che c'è stata un'incomprensione, poi un'altra volta con un'altra persona, almeno due o tre volte mi sono messo in mezzo, non perché sono chissà cosa, perché non mi piace, qua in radio noi dobbiamo solo discutere, divertirci e senza maniere di forza e di niente. E qualche volta, ripeto, è capitato anche a te personalmente, che ti posso dire con Eugenio, per un'incomprensione che poi mi sono intervenuto io, ho detto e di lì vi siete chiariti e è andato tutto alla grande, però magari se qualcuno in quel momento interpreta male, parla in occhi, vieni in occhi, e di lì come succedevano, che mi raccontate voi, io non ne ho mai conosciuto di gente che andava a farrarsi, però mi avete raccontato che gente andava a cercarle a farrarsi culo. Cappa, io ero uno di quelli lo stesso, sono un tipo molto impulsivo. No, ma ripeto, io sono un tipo che, cioè, alla fine poi quando scatto spengo il baracchino, vado, prendo la macchina e vado, capito? Ripeto, no, ma non me la frega per niente, l'altra sera c'è l'importante, ti ricordi? Praticamente ho spento, mi sono messo a cucinare, devo fare quello che da prima, non è che mi sono fatto più essere creativo. E a me mi piace più se uno entra e dice ti sto mettendo una portante, dimmi il motivo. E poi ci possiamo trovare a tu per tu, non c'è problema. Sono l'uomo più felice del mondo. Però uno che si nasconde dietro un baracchino, mette una portante, alla fine mi devo fare essere creativo. Ma cosa me ne frega, spengo il baracchino e mi faccio quello che devo fare. Guarda, io dico sempre, il segno di rispetto di una persona non è un segno di debolezza quando uno si fa dividere tranquillo, devi stare sempre attento a quelli cosiddetti buoni. Infatti io quando avevo le persone silenzio, lo dico per esperienza, perché per questioni di sport, di cose, ho girato tutta, non dico tutta la Sardegna, ma buona parte della Sardegna, abbiamo incontrato di tutto di più, battaglie nei paesi, perché quando arrivano le squadre di Sassari sembravano che fosse arrivata la Juventus, e tu magari sei torinista o milanista, e c'erano guerre, battaglie, affarature, e ho visto di tutti i colori, e quelli che dovete me erano quelli più tranquilli, non quindi prepotenti, che faceva, e così in radio, molte volte c'è uno quasi dello spaccone, e poi alla fine lo vede al dubbio, e beh, e cosa fai? E per quello che sto dicendo. E poi in radio secondo me dobbiamo solo stare tranquilli, cercare di scherzare, ironizzare e non fare per malosi, molte volte io non sono meglio degli altri, tra parentesi, non mi sento superiore agli altri, però mi sento per certi versi meno coso, meno bambino, perché molte volte io vedo delle situazioni e dico ma di cosa stiamo parlando? Cioè ci stiamo bisticciando perché quello ha fatto quello o quell'altro, ma lascia bisti. Io molte volte sento certe discussioni, preferisco neanche intromettermi, rimango fuori, tranquillo e boh, è felice. Ed è la cosa migliore. E così spero che tutti la pensiate come la penso io. No, io ripeto, sì, ero quello che ero, prepotente, un me. Lo dico, ho cambiato carattere, tutto, sono più grande, quindi la cosa la ragiono 10.000 volte prima di arrivare a certo qualcosa, capito? Però non è che mi mettono a fare lo scemo in frequenza, non piace farlo verticale lo scemo. Quindi perché mi devo far sentire e far vedere quello che non sono? Mi rompe, allora niente, preferisco spegnere e basta. e io accendo il baracchino per rilassarmi, passare qualche 5-10 minuti con gli amici. E boh, tutto qua. Avanti già. Buonasera a tutti, sono tornato. Oh, ero mezz'ora chiamandovi e cercandovi senza trasmettere, cercando di ascoltare e avevo l'antenna staccata. Mamma mia, Riccardino è tornato. Il terrore della frequenza. Ciao Riccardino. Ciao anche Fabio, avanti Fabio. Bella Riccardino, bentornato. Tutti, ciao Fabio, Tonino, Gianni e Roberto, mi sto dimenticando qualcuno? E me, oh Riccardì, spero che non abbia schiacciato la portante chiamando Brecchi Brecchi con la zeta antenna. Ciao, ti vedi schiena in bruciare finale. No, no, stavo ascoltando se c'era qualcuno, non ho trasmesso. Riccardì. C'è. Togliti questo vizio di stare a fianco girato dal microfono, ti ho detto ti siedi e ti metti di fronte al microfono, perché tu a momenti non ti senti quasi, poi di colpo aumenta la modulazione, c'è questo vizio di girarti di ricorso, quando sei in radio stai vicino al microfono, in direzione del microfono, perché adesso siamo tutti vicini, magari se devi parlare con qualcuno lontano scompari di radio, stavi scomparendo di radio. Sono davanti al microfono, al massimo mi stavo spostando un attimo per staccare la luce principale perché qua arrivano tutte le zanzare, un attimo che sennò c'è la guerra qua con le zanzare, un attimo. Vabbè, sì, mi fa la lampada che le fa rosso. Romè, dovrebbe scheggiare qualche millesimo e secondo, poi parla, invece parla subito e manca la voce, poi ti prende. Ma io non so se tu, io sono andato a casa di Riccardino, gli ho detto anche il padre, non so se l'ha notato anche Fabio, lui quando sta parlando in radio, talmente la voglia di parlare, rimane in piedi e per dire non è in direzione del microfono e lui parla come stai parlando con una persona, però non si rende conto tante volte, infatti stavo parlando anche con questo, con Sergio ieri, proprio di questo fa, lui molte volte, scusa a questo punto Riccardino, non è una critica, però è sicuramente un'osservazione, quando lui sta parlando alla radio è come che sta parlando in cosa, in mezzo alla gente, però ricordati il microfono è come un tubo, se tu non ti metti in direzione di quel tubo la tua voce va, si disperde, è molto abbastanza direttivo il microfono che utilizzi tu e diciamo in linea massima quelli che utilizziamo tutti, se tu ti metti a 10 cm spostato, decentrato dal microfono molte volte non si sente neanche o si sente talmente bassa la voce. Avanti a te la risposta Riccardo. Vabbè, sì lo so, qualche volta mi dimentico, però adesso sto parlando dritto al microfono, prima mi sono spostato, l'ho detto perché c'erano le zanzare che sennò mi martoriavano, perché c'era la luce grande accesa e sennò arrivavano a dozzine di zanzare e volevi che mi pungessero. E ci sono un po' le lampade, quelle blu che attirano gli insetti, quando le zanzare vedono quella luce vanno lì e le secca. Devo comprare infatti. Io ce l'ho con le grande grande. Se ne fa rosa. Non so se usi le bacchette giapponesi, te le ricordi, le conosci? Bacchette giapponesi, boh, io conosco le mazze da tennis, scacce secche, quelle che brucia tutto. Le bacchette, quelle che usano per mangiare i cinesi e i giapponesi, non le hai mai viste? Sai che cosa? Quando mangiano i cinesi e i giapponesi, non usano le bacchette. Le bacchette tipo quelle dei sushi. Quelle lì. Tu, quando ci sono le zanzare, non so se l'avete visto il film Karate Kid, che c'era quel maestro cinese, giapponese, non so cos'era, che prendeva le mosche con le bacchette, e tu quando ti passano i tanti giri le prendi al volo con le bacchette. Vabbè, cioè, già capito al volo, il maestro Miyagi. Miyagi, ha detto me. Già, quando ha detto bacchette, zanzare, ha detto qua, vuoi vedere che per dire questa roba. L'avete visto quel film Karate Kid, vabbè, diciamo, niente particolare, però era la palla più grande quando c'era quel maestro che era mezzo cieco tra l'altro con gli occhiali, si è girato tac e ha preso la vespa, cosa era? Buh. La mosca lui con gli occhi semi chiusi e fa tac e la prende a volo con le bacchette, fatti le gonfie. se tu sei veloce, Riccardi, però ti devi allenare. Sì, che le bacchette sono fine, quanti va a pigliare? Non lo so, proprio per quello, la difficoltà è quella, ma nel film c'era questo maestro di arti marziali, per farmi capire a questo ragazzo che era il suo allievo, quello togli la cera, dai la cera, che gli ha fatto prima pulire la macchina, gli ha detto insegnami l'arte del karate, però lei faceva lavare tutti i giorni la macchina, diceva dai la cera e togli la cera, era il movimento di protezione quando ti tiravano un pugno, le passava in un senso, rotazione con uno, rotazione, e alla fine gli è servito nel combattimento, e così era con le bacchette, ha fatto vedere tac, e gli ha preso con due bacchette di quelle che stava mangiando, c'era una mosca che stava girando in giro, ma una cosa fantascienza, per quello l'ho detto come battuta ironica per Riccardino. Per voi Riccardi ce le ho le bacchette nuove robe, mai usate, perché ho usato le forchette, me l'ho fatto portare l'altro giorno a casa una bacchetta di sushi e non me l'ho mangiata con mio figlio. Praticamente lui è fissato, cazzo, io non so, lo metto in volta a mangiare così volentieri questo sushi. Ciao Rome, dimmi. Non so se hai visto il film di Thomas Media quando era cinese. A prima ho visto che lui se lo imbottivo con le formichine. Sì, l'avevo visto Thomas Media quando un ragazzino era un piccio, tutta la serie, cazzo. Squadra truffa, antimafia, Ermon Lezza, lui era il commissario, l'ispettore Girardi, troppo bello, che c'era bomba, quante risate mi sono fatto, sono ragazzino al cinema, ogni tanto li replicano qua in televisione, ma quello del cinese era un mezzo suonato. Sì, canale 34, lo guardo spesso io. Danno tutti questi film di coso, di quelli squadra antimafia, antitruffa, poi quegli altri con quell'altro, quell'attore, come si chiama, quello biondo, se non mi ricordo, che sembra Robert Redford con i baffi, Franco Nero. Maurizio Merli. Ah, Maurizio Merli, dai, sto dicendo così. Aspetta, parenti miei. Parete di Gianni, al plurale. Avanti, Riccardo. Scusate, ma a proposito di questo sushi, anch'io sono dipendente dal sushi. Davvero? Io l'altro giorno l'ho preso, me lo faranno portato a casa direttamente da Cocco. L'ho preso lì, ho preso due barchette, perché a mio figlio 32 pizzi non gli bastano, quindi l'abbiamo dovuto prendere 64 pizzi. Che schifo, già, cioè mia figlia l'ha preso, ma ieri se l'hanno presa, non la lascia perdere. Che schifo, una volta mi avevano convinto ad andare, ho detto io mi aspetto qua fuori, andate, sono andato di fronte, che loro sono andati a Cocco, io sono andato a mangiare da Blackstone di fronte, ho detto vai, ne mangi un bel dubbiato di calamari, patatine fritte e insalata, la stessa cosa. Ma infatti io preferisco una bella pizza, come me l'ho mangiata l'altro giorno, con la zuppetta di frutti di mare e il portottone, cercate la in due. Non c'è paragone. Avete parlato in 40, non so se ha parlato anche Tonino, però tu Riccardi sicuramente, Tonino anche tu hai parlato. No, negativo. Volevo parlare anche io, sono riuscito. Riccardi, stavi sovramodulando a Gianni, ti rendi conto tu, con un baracchino piccolino sei riuscito a sovramodulare a Gianni, ti passava lui, però tu li disturbavi parecchio. Non ha sovramodulato, mi ha sottomodulato. No, già, ti ha dato grande fastidio, ti tiravo fuori un pochettino, però ti ha disturbato tanto, considerando che c'è un segnale più basso del tuo, 9 più 10, tu sei quasi 9 più 20. Ok, Toni, date il mic che poi farai girare per Fabio. Io mi devo usare questo cavo di cuffie perché sento male. E non mi fa sentire bene, devo assentarmi per almeno 5 minuti. Riprendi Fabio, ci sentiamo tra poco. Ma mi sembra che non sia solo le cuffie il problema, perché mentre diceva, fatto che ho sentato, le posso anche parlare male, mentre diceva sento male con le cuffie, per uscire qualcosa di radio, o è arrobato il problema. L'ho sentito anche io, stai uscendo male, non so se c'era qualche problemino, però stavi uscendo tutto. È andato, vabbè. Comunque, Riccardi, cosa è? Sei dipendente dal sushi? Vabbè, ma stavo dicendo, se mi metti a scegliere tra calamari e patatine, al sushi secondo te cosa scelgo? Certamente i calamari e le patatine, ma non c'è confronto. Così va bene, Roberto. Questa qua, da dipendente, chissà che puzza paga prende, chissà. Vabbè. insieme già. C'è mai andato tu alla pizzeria San Gabriele a Porto Torres? Tanti anni fa ci sono andato, comunque non è più il numero uno a Porto Torres del San Gabriele. Sono andato? No, solo per la cortesia e per le cose buone che fanno. Caspita, non è il numero uno, è bravissimo. Vabbè, adesso meglio va, sì? Sì, adesso va meglio. No, no, non parlo di cortesia, già. Come ti dico io, sicuramente sono antipatici. Quello è, sono scortesi, perché ti dicono, sì, sta arrivando, mi dà appena messa. Ah, scusami, è passato quello lì, perché è qua, là. Malizia al massimo, ti tengono là così. Come si chiama? Dove c'era il gobo? Non mi ricordo come. Un tipo bamba, nome così, c'ha. Ho capito come, sì. E via Camitta, dico Camitta. Quelli lì sono di Fonni, infatti la salsiccia, dei formaggi, te li mettono loro, fatti in produzione loro. Se posso dire, la pizza è veramente buona. E San Gabriele era eccezionale con la zuppetta. Quello ho mangiato io. E io. Un attimo che mi metto la felpa che qui inizia a far freschetto. Beh, in poche pizzerie ho visto che ti cambiano il piatto con la buccia dei frutti di mare, in poche pizzerie, cioè, me l'hanno cambiato 3 volte a me. E la pizza è buonissima, si paga un po' però è buona, è la cortesia, si avvicinano, ti chiedono com'è andata, se ti serve qualche cosa, sono molto garante. Però se sei voi essere Pipino lo sai dove c'è la migliore pizza con la zuppetta? Che è un buco che non ci va nessuno perché non lo conosce nessuno, lui gioca solo sulla qualità. E come si chiama? Io a Marchetto, la conosci Marchetto, pizzeria come si chiama? Vabbè, adesso me lo ricordo, quella strada che passa prima dello stadio di Platamona, c'è una via che poi porta a San Giorgio, si chiama, non Marchetto, cacchio, comunque c'è Gavino, questo lavorava a Porto Cervo, uno chef di Porto Cervo, sono già un annetto che non ci vado, io andavo apposta a mangiare la pizza con le coste, te le fa lui davanti, infatti dici, siamo diventati amici, la prima cosa dico, come sono le coste, oggi le fa, mi, appena fatte, me le fa vedere, c'è la cucina a fianco, mi, queste sono le coste, si cucina le cotte davanti a te e poi se le mette nella pizza, ma buona, si fa una pizza spettacolare. La zuppetta la fa con cotte, branchi, tutto quanto fresco, gamberoni, arselle, mette un po' di tutto. Villa Gorizia. No, Villa Gorizia è un'altra, io dovevo andare a Villa Gorizia a Toni e per errore, siccome ho sbagliato, sono andato di lì più in giù, prima di arrivare all'incrocio di Platamona, come si chiama? Passando, proprio guardo Villa Gorizia, tu fai quella strada lì di Marchetto, si chiama, se non mi viene il nome della pizzeria, comunque di lì a Marchetto in fondo, sarà un paio di chilometri prima dell'uscita che porta allo stadio di Platamona, si chiama, comunque lui si chiama Gavino il proprietario, c'è la ma tutta roba infatta in famiglia, lei è molto bravo come pizzaiolo. E poi vantavano me Piazza Garibaldi come pizza questa con la zuppetta, sono andato un paio di volte, mamma mia, lasciamo perdere. Addirittura le cose probabilmente con le arcelle la roba del giorno prima, riscaldate. E poi un'altra volta mi ha portato mio cognato, infatti mai più, gli ho fatto la croce, come si chiama quella di fronte a Danilo, come si chiama quella pizzeria? Posata. No, andava a Porto Torres a sinistra, più in giù di coso, di... Anche aiutatemi, quella che c'è più avanti di coso, di Danilo, però sulla sinistra, andando verso Porto Torres. La cascina. Non ricordo come si chiama, già lo conosco. La cascina. La cascina. Lì mi ha portato mio cognato, infatti gli ho fatto la croce, magari adesso avranno cambiato direzione, pizzaiolo, però ho detto il giorno, mai più, ho detto, non me ne direi più, no, c'è un amico mio, bravo, arriviamo di lì, mandiamo la pizza con le cozze, la zuppetta, eccetera. Come mi arriva questa pizza? Io vado matto per la pizza, però ho gusti molto particolari, me ne accorgo, ecco come mi porta questa pizza, un fiago di roba variata, di roba strana, ho detto no, io non ne mangio di questa pizza, neanche a vederla, la mangia mio cognato, come la mangia, la tira fuori e c'era un pezzo di acciaio, c'è presente la scoppa che lavano il forno, la lunghezza di quel filo d'acciaio della scoppa, si era trovata in mezzo ai denti e dice, che cos'è questa cosa? Ha tirato fuori e c'era l'acciaio dentro la pizza. E ha detto, oh, scusa, se erano molto amici scherzosi, ma che cazzo vuoi adesso? Quando ti rendi qua? Non ti preoccupare, l'altro giorno hanno trovato un bullone, dice, che cazzo ha fatto a dirne burro? E poi un'altra volta, questo però è il massimo, se volete ve lo racconto. Racconta, tutte le racconto mai. No, ma come questa già, probabilmente non ne avete mai sentito e mai visto. Sì, no, tutta la famiglia intossicata. Dai, io vi ascolto che continuo a fare quello che sto facendo. Continua, Roberto. Non dico la pizzeria perché non lo voglio dire. Comunque vicino, visto che forse sta ascoltando Giulio, vicino in quelle zone lì, non all'interno, diciamo più verso l'esterno di dove abita Giulio. Non so se funziona ancora la pizzeria. Comunque questa pizzeria facevano le pizze d'estate all'aperto, c'era il forno all'aperto. Un grande piazzalone, fuori, olivetta, eccetera. E sono andati degli amici miei a mangiare la pizza. Si sono seduti, hanno ordinato la roba da bere e hanno ordinato le pizze. Arrivato a un certo punto c'era il pizzaiolo, si allontanava la pizza dal forno, il forno tenete presente era all'aperto, in mezzo alla boscaglia, diciamo, in mezzo agli alberi, eccetera. Uscito fuori, è andato dietro il forno, si è abbassato e ha fatto la pipì, detto in italiano. È ritornato e ha continuato a fare le pizze davanti, loro pensavano lui che non se ne fossero accorti, ha prebigliato le media, io a casa e se ne sono andato. No, io c'è quella di via Domenico mille lire per non fare nomi, è successo anche a me una cosa molto brutta, ma non così, a livello di star male tutta la famiglia. Stavamo tornando a Portotorres in due macchine, eravamo a trovare mia sorella, c'era la mia sorella quella che abita a Sassari e io con mio padre e mia moglie. Eravamo al telefono, mi fa dai ci fermiamo qua a mangiare qualche cosa, io ci fermiamo, entriamo dentro. Emanuela era piccolina, mi fa papà io voglio la pizza con panna e salmone, va bene figlia, la panna e salmone. E Viviana gli ha chiesto, non è che me la fai gustare Emanuele? Eh sì, certo, ma che strana questa pizza, la sento amara, gli ha detto Viviana, non è mangiare figlia mia. No, male, non sento nulla io, non la sento amara, vabbè, forse la bocca mia, ha detto, cazzo, mangiano questa pizza, cominciano a sentirsi male, a vomitare. Se hanno dovuto andare in bagno e hanno vomitato, poi è uscita mia moglie e ha vomitato anche lì, poi sono andato subito al pizzaio, io gli ho detto scusa ma questa roba non è fresca, probabilmente ha fatto male a tutti, non te lo sto dicendo per niente, però almeno per bloccarla perché magari fa male ad altra gente. E lui ha detto guarda che la roba è fresca, e poi gli ho visto le mozzarelle vicino al cammino, e ha detto scusa ma le mozzarelle lì non si tengono, le mozzarelle devono fare la continuità del fresco, non puoi tenerle vicino al calore. Ma guarda perché le mozzarelle sono fresche, ti faccio vedere la data, ma a me non interessa, possono essere fresche quanto vuoi, ma se le tieni vicino al calore si rovinano, si lacidiscono. Beh, poi mi telefona mia sorella, poi già come state, sono male anch'io, mi fa male la pancia, questo e quell'altro, e mi ha fatto, lo sai che anche Zaira, la figlia, ha vomitato, e a un certo punto io ho preso, ho chiamato in ASS, perché questo qua non mi ha dato ragione, capito? Chiamato in ASS, no, i carabinieri mi hanno detto, deve prendermi un pezzo e portarlo qua, che mandiamo in ASS a controllare, ho detto no, ma mandatela a bloccare almeno, perché questo è ottuso, gliel'ho detto, e ha detto che non gli fa niente alla mozzarella. E dice adesso mandiamo in ASS lì, avete preso il campione, ho detto no, il campione non li ho preso perché sentivano tutti male, e ho pensato porti subito i suoi familiari all'ospedale a fargli la banda gastrica. E siamo andati a pronto soccorso e tutto quanto, cazzo adesso non so poi che cosa l'abbiamo fatto, però io non l'ho fatto per fare del male al pizzaiolo, ma per bloccare il fatto che magari potesse far male all'altra gente. Ma più che la mozzarella, scusate se interrompo, era la panna secondo me già. Non lo so, però qualche cosa era, vabbè, perché sono sentiti male tutti, mia nipote, mia sorella. Mio padre è stato il più furbo perché si aveva preso l'insalata, una fettina, i ferri, ha mangiato normale, ha detto che lui di pizza non ne vuole. E si è mangiato, è stato quello che è stato vinto. Sì, vai Fabio per fare girare, per Riccardo e per Toni. No, io la cosa più simpatica, così mangiando fuori, vi faccio una parentesina veloce. Siccome mi capita spesso di lavorare nelle cucine dei ristoranti, per darvi l'idea, io di solito non mangio in ristorante, almeno che non conosca bene la cucina e abbia un bel concetto. Perciò ad oggi mangio praticamente in un solo ristorante, e a Sassari in due, punto. Ma la cosa più carina che mi è successa a Cagliari, ristorante di Roma, c'ero io, stavo mangiando, a un certo punto scoppia il forno, non ti dico niente, boom, bellissimo. Adesso vi racconto un'altra cosa, quelli che vanno a mangiare nei ristoranti cinesi, scusa Tony. Stai tranquillo. Allora, un amico dei NAS, sono quelli del coso, dei carabinieri, quelli che fanno i controlli dell'ASL, sono andati in un ristorante cinese, qua a Sassari, non fuori, sono andati a fare un controllo e li fanno, entrano nella cucina e c'era un secchio con uno straccio fuori, in questa cucina, un po' di acqua c'era dentro, e li fanno al cinese, toglilo via, fammi sparire quella roba là, con lo straccio, fammi sparire quello straccio da lì, che non va bene, ecco, no, come no? Si diceva di nuovo, te lo ripeto, togli da lì quel secchio con lo straccio che non va bene. Eccolo, no, straccio. Eccolo, continuava a dire, che cazzo sta lì? Allora arriva il tipo che parlava l'italiano, gli fa, toglimi questo straccio, questo secchio, dice, no, quello non è straccio, quello lì è un pezzo di carne, la stiamo mettendo, non so cosa cacchio di pasto dovevano fare. Dice, però quello, da lì fanno chiudere il negozio, il locale. Sì, veterinari, se stai dicendo, veterinari della SEA. Quelli della ASL che fanno i controlli. Cacco diceva uno straccio, sembra uno straccio prevalente, era un pezzo di carne. Io non ne conosco uno di Antonio, si chiama. Il cognome è con la I. Aspetta, lasciami pensare. Io ne conosco 3 o 4 di lì. Aspetta, se c'è un Antonio, adesso non mi viene Antonio però. C'è sicuro, perché sono venuti anche da noi e era un mio compagno di scuola, quindi lo conosco bene. Sono venuti da noi di lunedì, mi ha detto il mio principale di mettere le cotte in vendita, invece non ne avevamo perché il lunedì non ce n'è, mettere le cotte durano 3 giorni. 3 giorni, noi ce l'avevamo un giorno, potevamo metterle tranquillamente, erano fresche. Le ho messe in vendita, ecco, sono arrivati quelli dei veterinari della SL, hanno preso i campioni, mi hanno sigillato tutto, hanno fatto pesare le cose che avevano messo, un po' tutto, capito? Mi hanno fatto fare un po' tutte le cose, mi hanno fatto fare praticamente sigillare dentro un sacchetto loro un paio di cose di una qualità, un paio di cose dell'altra, c'erano ostriche, c'era tutta questa roba qua, se l'ho preso un po' di tutto, ma non ho fatto un verbale a vuoto, nel senso che li controllo e basta. Maricadino ancora c'è. Sono ancora, sono qui in ascolto. È cambiato la verità. Cosa? Mi piacciono i frutti di mare. Sì che mi piacciono i frutti di mare. Mi piace soprattutto, vabbè, i calamari, quelle cose, polpo, le cozze, tutto mi piace del mare, tranne vabbè, pesce, qualcosa, però frutti di mare sì. Anche io sono così. Fatti portare da papà la pizzeria San Gambino a Porto Torre, se chiedi la zuppetta, la pizza con la zuppetta di mare, poi mi dai la risposta. Pizza pirata. A proposito di pizza malefica, io so dove non bisogna mai andare, che sennò stai male per una settimana. Dove, dicelo. Praticamente è zona dove sta mia nonna, più o meno davanti a casa, si chiama la Perla Nera. Prima era Farina d'Oro, si chiamava. Perla Nera l'ho già sentito. Ma una pizza che stai male per una settimana, non ti puoi neanche muovere dal letto. Perché dipende sempre dalla lievitazione, se non sono lievitate bene fanno male. Io ce l'ho sotto casa la pizzeria, ma non è il massimo, dai, se la prendi con i frutti di mare ti metto 2 cose surgelate, cazzo fanno schifo. Oh già. È fatta apposta la pizzeria c'è sotto casa, perché a fianco c'è anche la pizzeria pure per papà vuoi dire. Ma magari è duccio. Hai capito Roberto? Comunque, se volete togliervi un gusto, una volta nella vita si può fare, vi dico, dove si può mangiare la pizza. Come no? Tenete presente, è l'unica pizzeria che penso che poche ne esistano nel mondo, pizzerie così. Questa pizzeria, dopo vi dico dove, è l'unica pizzeria che produce tutto lì, farina, lievito, l'olio. L'unica cosa che non produce loro sono i pomodori che prende Icasa e le mozzarelle che prende Arborea. Tutto il resto che serve per fare la pizza, dalle olive, i coso, i carciofini, tutti gli ingredienti che ci sono, la salsiccia, il lievito, la farina, l'olio, fa tutto lì. E non so se siete mai andati, però solo su prenotazione costa un po' più del normale, la pizza è un colore completamente diverso da tutte le altre pizze. Se voi la prendete, io sono andato due volte, si chiama vicino a Fertilia, vicino all'aeroporto militare, non so se siete mai andati, c'è l'agroturismo, che non è neanche un agriturismo, che è meglio del ristorante, si chiama infatti Ristoturismo Le Pinnette di Manca, il proprietario di Olio San Giuliano, ed è una cosa fuori dal mondo, la pasta che fa quello lì, gli ingredienti ce ne mette pochi, nel senso non c'è molta varietà, per dire si mette i funghi fatti prodotti da loro, i carciofini, per dire non ti mette le acciughe, cose così, non le mette la salsiccia, ti mette tutte le cose classiche che possono essere una pizza, non c'è niente che non sia prodotto da loro a parte il pomodoro Casar e la mozzarella, tutto il resto dal lievito alla farina è tutto fatto da loro. Ci sono già andato io, Roberto. Santa Maria la Palma, gira a sinistra per Fertilia, fai quel ritirino.